La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Che bello ritrovarsi tutti il sabato qui su Radio 24 per parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisi. È una settimana bella densa questa per quanto concerne le uscite in sala, e sarà così fino all'assegnazione degli Oscar. Piano piano caleranno tutti i pezzi da 90, insomma, di questa edizione. Anche questa settimana ne abbiamo almeno uno, diciamo così, che è Joy, di cui parleremo fra pochissimo. Ma vi voglio solo ricordare alcuni capisaldi della trasmissione. Intanto giocheremo insieme, come sempre, con i più bei film da vincere in Blu-ray, ma soprattutto parleremo già con qualche anticipazione di The Hateful Eight di Quentin Tarantino, che è stato presentato alla stampa questa settimana, che è già in pochissime, selezionatissime sale che lo proiettano nello splendore della pellicola 70 mm, così come voluto da Quentin Tarantino, in esclusiva per una settimana. E fra poco parleremo con Piero Fumagalli dell'Arcadia di Melzo, vicino Milano. E poi, come sempre, beh, insomma, il dominus di questo weekend è sicuramente Carlo Verdone, e fra poco lo sentiremo anche con Antonio Albanese parlarci del suo L'abbiamo fatta grossa. Cominciamo allora con Joy, ascoltiamo subito la clip. Christy, guardami. Voglio che ricordi una cosa. Non pensare mai che il mondo ti debba qualcosa, perché non è così. Il mondo non ti deve niente. Ho grandi ambizioni e grandi idee. Stiamo lavorando su un'invenzione, è una cosa molto seria. In vita sua non ha mai gestito un'attività. È colpa mia, le ho fatto credere che poteva essere più di una casalinga disoccupata. Non voglio fare la fine della mia famiglia. Devo fare le cose per me stessa una volta per tutte. Sono affari miei. E basta. E allora, avete sentito la voce doppiata del personaggio interpretato da Jennifer Lawrence in questo film di David O. Russell, con anche Bradley Cooper e Robert De Niro, la storia della donna che ha inventato il mocio. Adesso qui uno dirà, ma insomma, è un film. Sì, un film, perché tra l'altro quello dei geni che hanno inventato cose, come dire, della nostra quotidianità, è quasi un filone di Hollywood. È una o due volte all'anno film che raccontano, no, non per forza Steve Jobs e le sue invenzioni che hanno cambiato il mondo, ma insomma siamo sicuri che anche il mocio non abbia cambiato la nostra vita quotidiana. Anzi, io ne sarei abbastanza persuaso. Scherzo per dire che ovviamente il tentativo di David O. Russell è quello di mettere in scena una storia particolare, che però abbia dei valori universali, quelli di una donna, tra l'altro con una famiglia sconclusionata, e che si deve prendere sulle spalle non solo il carico della quotidianità di questa famiglia, ma anche quello delle sue ambizioni, del suo sapere di essere geniale e di aver inventato una cosa che deve essere però amplificata dai media del tempo. E stiamo parlando di una televisione che scopriva le televendite con un potenziale davvero clamoroso. Ecco, questa è la storia di Joy, a mio modo di vedere interpretata magistralmente da Jennifer Lawrence, che rimane però forse la cosa migliore del film, di un film che David O. Russell forse tira via con un po' di fretta, anche se a mio modo di vedere è un film, proprio per questo, che conferma lo status di star assoluta di Jennifer Lawrence. Provo a capire se Boris Sollazzo è d'accordo. Ciao Boris! Sono d'accordissimo, è sempre più inquietante questa identità di amorosi sensi tra me e te, però insomma ne vado fiero, è sicuramente un complimento a me. Detto questo, Joy è la dimostrazione che Russell deve in qualche modo decidere cosa fare da grande, anche se grande già lo è, perché si è scelto un Russell Pack che ormai è indistruttibile, Lawrence, De Niro, Cooper, che addirittura qua viene inserito a forza in un personaggio che è un po' off topic rispetto al resto del film, anche proprio come tonalità del personaggio, come colori del personaggio, e che non rende giustizia neanche al talento dell'attore. Sembra che Russell si voglia in qualche modo nascondere in quello che sa fare meglio, cioè in questi racconti di nuclei familiari assolutamente squilibrati in tutti i sensi, squilibrati quantitativamente, qualitativamente, con la follia e la genialità che viaggiano parallele e che si mischiano con la sfortuna e i momenti straordinari che si mescolano, insomma, grandi storie di piccoli uomini spesso, o comunque di uomini rotti, di uomini spezzati, di donne spezzate. Solo che qui non c'è né il lato positivo, né la forza di altri film magari più comici, né la struttura dei film più epici. Joy è un film strano, un film che inizia benissimo, con la solita scena iniziale a Laura Russell che gira in una casa come se fosse il Salvato il Soldato Ryan, con un talento visivo straordinario e con la capacità di rendere pazzeschi dei dialoghi che in fondo sono normali, dei dialoghi che in fondo sono naturali. Jennifer Lawrence, come hai detto tu, è una star, ma è anche un talento pazzesco, quasi irritante in alcuni momenti, nel senso che è così brava a fare quello che fa che a volte hai l'impressione che tutti si accontentino solo di questo, il suo regista, gli altri attori si appoggino a lei e anche lei ormai abbia inserito una sorta di pilota automatico. Il problema di Joy qual è? Che fino a metà del film va lievitando piano piano, come fanno i film di Russell, e tu hai l'impressione che il meglio deve ancora venire. Quando ti appresti a vedere che il meglio deve ancora venire, il film si sgonfia, assume una tonalità fantozziana. Russell è molto più sciatto nella regia e anche gli attori non si impegnano più di tanto. La scrittura, invece di tirar fuori i guizzi normali dei film di questo regista, si rifugia in molte banalità e alla fine, insomma, voleva essere Tucker un uomo, il suo sogno di Coppola, e diventa solo uno dei tanti film di genere, come hai detto tu, di chi ha inventato cose normali che rendono la vita migliore, no? Da Tre Cristalli fino appunto al Mosh. Assolutamente. E allora, questo è Joy nei cinema italiani. Noi a questo punto sentiamo subito come vanno le cose sulle strade a proposito di Tre Cristalli, chissà se da qualche parte piove. Torniamo insieme per parlare di altri due film, partendo da Point Break, remake così così, diciamo, del famoso e nettamente più bello film di qualche decennio fa. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, Rosa Purpurea, la seconda parte. Dicevamo Point Break. Point Break è un film che, come dire, ha segnato sicuramente un'epoca, perché, se vogliamo, il suo attore protagonista, i suoi attori protagonisti, Keanu Reeves e Patrick Swayze, in quel momento erano i due idoli delle folle per tanti motivi, anche e soprattutto forse delle folle femminili. Vuoi perché Kathryn Bigelow, insomma, era una regista che si stava affermando e forse proprio con quel film metteva in scena anche un aspetto, una politicità vissuta attraverso le storie di questi surfer bellissimi, che arrivava dritta al pubblico come un vero e proprio pugno. Ma il tempo passa e sappiamo che sempre di più il cinema preferisce rifare per palati di oggi, rifare per gusti che sono quelli che sono cambiati, magari in questo caso per i giovanissimi, e quindi in questo caso adrenalina, atleti ai massimi livelli, e così dal Point Break così caldo e politico del 91 si arriva a questo Point Break tutto di intrattenimento. Sentiamo la clip. Con che razza di soggetti abbiamo a che fare? Un gruppo di criminali con delle capacità molto insolite. Perché non aprire il paracadute sulla giungla e scappare come un qualsiasi criminale? Perché non sono criminali qualsiasi, signore. Io penso che, come me, le persone dietro queste rapine siano atleti di sport estremi. C'è qualche miliardo di dollari in oro laggiù. Volete rubarlo? No, vogliamo liberarlo. Body, ha idea di quante persone hai ucciso? Di quante leggi hai violato? L'unica che conta è quella di gravità. No! Boris, sono attonito, troppi spari, un po' troppo di tutto, mi sembra, no? Beh, ma l'unica legge che conta è quella della gravità, penso che sia la fotografia perfetta di questo film. A me affascina tantissimo chi ha un'attitudine così suicida da andare contro un'impresa sicuramente fallimentare. C'è qualcosa che mi rende simpatico chi abbraccia una causa persa, o chi appunto si mette a confronto con l'impossibile. Già mettersi a confronto con Point Break era difficile, cioè pensare a un remake di Point Break, che è un film anche generazionale e straordinariamente inserito nel suo tempo, no? Penso come Trainspotting, un film che a rivederlo adesso lo trovi ancora fantastico, ma ne senti addosso gli anni, era complicato. Ma poi Erickson Corp pensa addirittura di dire, vabbè, ma in fondo no, chi era Catherine Bigelow se non una regista che ha una cifra stilistica unica e irripetibile. E a quel punto tu avevi solo una strada, cioè fare qualcosa di completamente diverso. Lui ci ha provato, ma pensa di attualizzare la filosofia di Point Break tra YouTube, modernità esibizionista, quindi appunto un gruppo di atleti di sport estremi che sono divisi tra il diventare sfacciatamente ricchi e compiere le 8 prove che li faranno arrivare a uno stato spirituale superiore, e inizia un delirante racconto infarcito di filosofia eco-zen con questo gruppo di banditi assolutamente incredibile, e non lo dico nel senso buono, ma proprio non credibile, che dicono cose come appunto non andiamo a prenderci loro ma a liberarlo, che uno pensate magari no, appunto uno che prende una tangente e dice no ma li sto liberando questi euro, non li sto prendendo. E magari ci credono anche poi. Esatto, è probabile. E soprattutto sorretto da una sceneggiatura inesistente, dal fatto che oltre a non esserci la Bigelow dietro la macchina da presa che era determinante in Point Break, non ci stanno neanche Patty Swayze e Keanu Reeves, ma ci sono due personaggi che non hanno neanche un'unghia di quel carisma. Dello spirito del passato non riprendono nulla. Vogliamo dire che se non ci fosse stato Point Break come paragone, forse sarebbe stato un buon film? Assolutamente no. Il massimo che poteva essere questo Point Break era una di quelle trasmissioni in cui mettono in fila una serie di imprese impossibili, di cadute incredibili, insomma magari commentate dal bravissimo Guido Bagatta. Quello è il massimo che poteva essere questo film. Ne hanno fatto un film anche costoso, e a me onestamente viene da piangere, perché insomma ci sono delle cose che vanno lasciate in pace. Point Break è una di quelle. Spero di dimenticarlo il prima possibile, per essere sincero. Non è partito benissimo peraltro nelle sale. Dopo il primo giorno di programmazione, mentre Verdone, di cui parleremo fra poco, ha preso subito la leadership, e Revenant continua a portare, a macinare grandi incassi, poi in break è lì terzo, insomma vedremo, sarà un weekend sicuramente nel quale un po' di curiosità la desterà, poi vedremo un po' come proseguirà. Allora facciamo asciugare le lacrime di delusione di Boris Sollazzo e cominciamo invece con qualche sorriso di gioia per i nostri ascoltatori, perché cominciamo a giocare con il nostro film misterioso. Assaggia questo. Che ne dici? Sì, può andare. La verità. Beh, fa schifo. E allora, avete capito che è qualcosa che si mangia. Qualcuno assaggia qualcosa e questo qualcosa, secondo questo qualcuno, fa schifo. Allora, da quale film è tratta questa clip? La Rosa Purpurea, @radio24.it, è l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere il titolo del film e il vostro indirizzo privato per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Fra poco ve ne faremo ascoltare un'altra traccia, magari anche dandovi il tipico aiutino. E allora cambiamo ancora film, perché avvicinandoci poi al momento di parlare e di sentire anche Verdone, affrontiamo un'altra pellicola che si intitola Una volta nella vita. La croce, signorina, sotto la maglia, grazie. Rischia di essere un po' faticoso, perché la seconda è un disastro. Ho riflettuto su un progetto che potremmo fare tutti insieme. Il concorso nazionale della resistenza e della deportazione. Sembra una cosa da intellettuali. Perché lo vuole fare? Sa bene che ci sbatteremo il muso. È proprio buffo. Molta più fiducia io in voi di voi nelle vostre capacità, pensate. B-E-R. Siamo capaci di parlare di questo argomento. Non ne dovete parlare da alunni. Ne dovete parlare da ragazzini, da adolescenti. Sono fiera di voi. E allora, avete sentito la clip di Una volta nella vita, un film francese diretto da Marie Castille Mention-Char, tantissimi nomi e tantissimi cognomi, è interpretato dalla bravissima Ariana Scarid. Ariana Scarid, che è diciamo un po' la musa di Robert Guédiguian, il cantore delle Stack, del cinema della Marsiglia proletaria, un'attrice che io amo molto e che in questo caso veste i panni di una professoressa, tra l'altro tutto ispirato a una storia vera, di un liceo molto difficile, avete sentito all'inizio, un liceo della banlieue sud-est di Parigi, etnie che si incrociano, religioni che si incrociano, conflitti sociali che possono esplodere. E questa donna cerca una memoria condivisa, cerca qualcosa che metta insieme questi ragazzi nel segno di un valore, che non continui invece a far l'Italia lì in questo crogiolo nel quale il melting pot sembra non realizzarsi mai, e trova il progetto comune in un progetto nazionale dedicato appunto alla resistenza e alla deportazione. Appena passata la giornata della memoria, questo film poteva uscire magari settimana scorsa, esce una settimana dopo, ma è un film che ha fatto molto parlare di sé ed è un film di ottima qualità, Boris. In Francia è stato molto visto e molto apprezzato. Ma sono d'accordissimo, non ripeterò per pietà dei nostri ascoltatori il nome della regista, perché ho fatto fatica a pronunciarlo una volta solo, poi mi sono venuti i crampi, però le faccio i miei più vivi complimenti, perché il genere scolastico è un genere rifugio, è un genere tra virgolette facile, se non per la difficoltà di far recitare dei giovani attori spesso alle prime armi, però è un genere facile perché porta con sé delle storie esemplari, porta su di sé un'epica epica che puoi domare facilmente con le armi del eroismo del professore e del vittimismo dei piccoli protagonisti. Normalmente quel tipo di struttura, che è anche propria dei film militari e dei film che in qualche modo raccontano una collettività, gli ordini di qualcuno, sono quelli che cercano l'amore del pubblico più facilmente. Proprio per questo sono diventati forse più complicati, perché ce ne sono tanti, perché ti commuovi facilmente, perché poi dopo L'attimo fuggente, francamente, o Il seme della violenza, è molto complicato arrivare a quei livelli. E bisogna trovare sempre quindi una chiave diversa, come fece a suo tempo Luchetti qui da noi, o come fa questa donna che decide di fare un film a tesi, nobilmente a tesi, che è un film sul raccontare la Shoah e farla raccontare a una classe molto difficile, una classe piena di musulmani, una classe che vive nel pregiudizio ma vive anche di pregiudizi, con una professoressa, Arianna Scarid, che rifiuta sia il ruolo della vittima sacrificale, cioè della donna o dell'uomo che dietro un cattedra prova a riscattare una classe e gli costa il posto, sia anche quella però del cattivo tenente, insomma. E quindi ti ritrovi invece un film che ha il coraggio di andare fino in fondo, cioè di cercare il riscatto di questi personaggi, volendo ricordare un vecchio film, ma non troppo, alla Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer, però molto più nobile, con una capacità di inserirti all'interno di questo percorso di consapevolezza molto bello, molto potente e neanche facile, appunto, perché parlare della Shoah in una modernità fatta di melting pot è molto molto complicato, e lei lo fa con grande forza e grande coraggio. Poi perché ha degli attori con delle facce straordinarie, giovani attori, ce ne sono due o tre clamorosi, e poi Arianna Scarid, come dici tu, che è la musa di Gedi Gian, questo è un film che sicuramente è piaciuto al marito, un'attrice che ha dato alla cinematografia del consorte, secondo me, la profondità che l'ideologia un po' gli toglieva, che ha un'umanità profondissima ma anche una sua durezza da vera professoressa che la rende credibile, una capacità di essere davvero guida morale e culturale, e alla fine tu vivi questo episodio di riscatto realmente avvenuto, commuovendoti ma senza retorica, e pensando che sì, è ancora possibile cambiare il mondo, lo si può cambiare con le nuove generazioni, e lo scetticismo è solo l'arma dei pigri e degli indolenti per non cambiarlo, questo mondo. E allora, bene, promosso quindi Una volta nella vita, il film con Arianna Scarid. A questo punto, linea alla regia, fra poco torniamo, e grande blocco dedicato a Verdone Albanese, l'abbiamo fatta grossa. La rosa purpurea. Lei è l'investigatore Merlino? Sono io. Devo recuperare una valigetta che mi appartiene. L'ha rubata. Sottratta! Me le prese queste? E adesso? Si restituiscono tutti i soldi. Tira fuori la valigetta. No. Cosa cazzo gli consegniamo adesso a questi? Stavolta ci spara. Come si dice, se hai hai, se non hai oi. Avverti se fai il gay, no? Se no mi fai fare una figura da cazzo. Comportamento clericale. Che ci prova bene? Ci clericale. Ci porca troia! No! Dobbiamo intervenire! Ma che cazzo ne so! E allora, Verdone Albanese, coppia di quelle insomma che fanno davvero locandina per L'abbiamo fatta grossa, il nuovo film di Carlo Verdone. Avete sentito un po' il clima, commedia proprio di quelle spinte, cioè di quelle che mettono il piedone sull'acceleratore e cercano di portare avanti la risata in ogni momento. La storia di un attore un po' depresso perché è stato lasciato dalla moglie, appunto interpretato da Antonio Albanese, non ricorda più le battute in scena, e a chi si rivolge? A Carlo Verdone, che invece è Arturo Merlino, insomma nomen omen, ma di mestiere non fa il mago, bensì l'investigatore un po' in disgrazia. L'attore vuole le prove dell'infedeltà della moglie per cercare di raggranellare qualcosa e per errore la strana coppia entra in possesso di una misteriosa valigetta con dentro 1 milione di euro, e da lì in poi il film si dipana anche con momenti piuttosto imbarazzanti. Quando avevo 19 anni non c'avevo una lira. Invece adesso... Beh, abbia pazienza però, mi lasci finire. E allora mi hanno proposto di fare delle foto un po' spinte, anzi più che spinte, decisamente porno, molto porno. Ma chi, lei? Sì, io. Perché? Guardi che a 19 anni avevo anche i capelli. Ma che c'entra i capelli col porno? Non c'avevo solo i capelli. Che c'aveva? Che c'aveva. Vabbè, noi ormai abbiamo una certa confidenza. A me non piace parlare di cifre e di misure, perché come dico anche nel quotidiano, bisogna guardare i fatti, farle capire le cose. Che c'avevo? No, ma che fa? Ma che fa? Ma che sta basicamente a solo per farle ma capire, per piacere, ma no, ma se tiri sulle mutande. Boris, io non so, sarà banale sta battuta, ma cioè, non ho ancora smesso di ridere. Allora, Albanese Verdone, se tutto va bene, Boris, siamo di fronte a un film che spacca, come dicono quelli più giovani di noi con 3G all'inizio. Va tutto bene? Va tutto bene. Allora, non chiariamo subito dove inserire questo film di Verdone. Non è uno dei capolavori degli inizi, non è nemmeno però quello del declino alla Allen che ha avuto appunto Woody negli ultimi 20 anni. Magari gli ascoltatori saranno più o meno d'accordo, ma io credo che da Viaggi di nozze in poi, da una 20 anni, i Verdone buoni come Che colpa abbiamo noi e poco altro si contano sulle dita di una mano. E questo invece è uno dei film migliori di questa seconda parte di Verdone. Ci sono diversi motivi, dal gaudioso in scrittura che secondo me dà una struttura e una visione al film che prima non c'era, al fatto che invece di creare una coppia in qualche modo squilibrata come quelle per diversi motivi con Muccino e la Cortellesi, qui ci mette vicino uno non solo simile ma anche alla sua altezza come comicità e allo stesso tempo complementare, perché con una fisicità, una vena surreale che magari lui ha ma in maniera completamente diversa. E così L'abbiamo fatta grossa diventa un film gentile, molto divertente, che di Allen, del secondo Allen, ha anche la svolta nel genere, devo dire, cioè la capacità di costruire anche un noir che non è affatto male, perché c'ha i suoi momenti di suspense, ha un finale a dolce amaro da commedia all'italiana, ha la sua capacità di non essere banale. E poi, cosa che non succedeva soprattutto negli ultimi 3 film di Verdone, ci si diverte, si sorride e si ride. Ci sono dei momenti in cui senti delle battute che probabilmente nelle serate verdoniane, che molti di noi fanno, in cui si ripetono a memoria dialoghi o monologhi di Verdone fino alla nausea, entreranno. C'è la battuta affidata a Netturbino, che è proprio una delle maggiori comparse, che veramente è epocale. C'è la capacità di Verdone, secondo me, di ritornare a guardare l'umanità vera che c'è nella nostra società, dalla barista rumena, interpretata benissimo dalla soprano Anna Casian, a Ernesto Fioretti, che ha una piccola scena in cui fa il vigile, ma che è gustosissima e che ricorda la capacità di Carlo Verdone di trovare delle facce e delle battute e dei personaggi magari non abituati al cinema che sono straordinari. Mi sembra che in qualche modo sia tornato Carlo Verdone, che si possa aprire una terza fase in cui lui possa arrivare a film ancora più felici. Questo esce in 850 sale, secondo me divertirà e molto il pubblico, credo proprio che insomma spaccherà e che saranno contenti, e io me lo auguro soprattutto per un motivo, perché secondo me Verdone e Albanese possono diventare una coppia all'americana straordinaria, e mi auguro che facciano tanti film insieme, che non si fermino a questo. E allora, nell'attesa di questo risultato, e ricordando anche che potrebbe esserci una sorta di passaggio ideale delle consegne fra Zalone e Verdone, che fanno anche rima, perché nel frattempo Zalone ha superato i 9 milioni di spettatori e i 63 milioni di incasso con il suo Quo Vado, che però sta pian pianino scendendo, anche se nel weekend soprattutto è un film che si difende ancora, quindi sull'esito di Verdone ormai c'è da raggranellare, forse arrivare a 65 e dire che insomma il successo, il miracolo quasi è avvenuto. Però adesso con 850 sale Verdone potrebbe davvero prendere l'eredità anche di una parte di questo pubblico. Sarebbe molto importante per il cinema italiano, nel quale, sempre stando agli incassi, Revenant ormai veleggia verso i 10 milioni già raggiunti e superati dal Ponte delle Spie. Questo per dire di cinema di qualità, di grande qualità, che sta facendo grandi incassi, e questo chiaramente mette una luce positiva su questo 2016. Però andiamolo ad ascoltare Verdone, proprio le dichiarazioni sono state raccolte dal nostro Boris Sollazzo. Prima Boris parlava appunto di questa svolta un po' alleniana, no? Allora sentiamo cosa ne dice Carlo Verdone al microfono di Boris Sollazzo. Carlo, una svolta alla Woody Allen nel genere? Io ti ringrazio di questa cosa, perché la prima cosa che ho detto allo scenografo, alla costumista, al direttore della fotografia: beh, avete presente quei film di Woody Allen di 15 anni fa, 20 anni fa, dove c'era quell'eleganza, dove c'era quella, non c'erano mai botte di colore, ma c'era come una certa forma di uniformità nei toni, in tutto. Sì, un pochino modestamente, anche se lui è un grande, io mi sono leggermente ispirato a quella sua classe. Certamente la nostra è una commedia italiana, quindi non è che possiamo imitare Woody Allen. Però l'ho tenuto presente, come ho tenuto presente alcune commedie francesi ultimamente, che sono eleganti, hanno una bella fattura, e abbiamo lavorato su questo, cercando di non fare una cosa raffazzonata ma di qualità. Spero tanto di esserci riuscito. Anche sulle grandi coppie all'americana, penso. Sì, sì, io volevo fortemente lavorare con un attore al maschile. Ho lavorato con tantissime attrici brave e belle, però questa volta sentivo il desiderio di mettermi accanto un attore. E chi se non Antonio Albanese, che lo cercavo sempre ma era sempre occupato, finalmente sarà liberato. E quindi tra di noi è nata uno splendido sodalizio, una splendida amicizia anche dopo il film, cosa molto importante. E soprattutto un partner ideale che ha un senso del tempo, della recitazione, della misura, dell'equilibrio e del rispetto come pochi. Questo ha fatto sì che questo bel mosaico venisse, secondo me, molto buono. Senti, dopo avervi visto è proprio difficile non immaginarvi ancora insieme. È quello che speriamo tanto, però dipenderà dal pubblico. Dipende se il pubblico ci accetta e ci applaude, noi siamo pronti. Non magari questo, ma il prossimo. Ci siamo dati la mano, abbiamo detto, il prossimo facciamo tu quello e io questo, perché abbiamo già una mezza idea, e lui mi ha detto, fatto. Dico, però aspettiamo il giudizio del pubblico. Lei è l'investigatore Merlino? Sono io. Si accomodi. Scusi, stavo iniziando a pranzare. Anzi, se vuole favorire. Con molto piacere. Guardi che più che pranzo noi facciamo un brunch molto molto rapido, una cosa semplice. Sì, mi piace. Sì, abbiamo un ospite, Buongiorno. Buongiorno, prego, accomodatevi. Accomodatevi. Zia, ci sono un po' di penne per l'ospite? Eh no, sono finite. E mo come facciamo? E vabbè, le facciamo una bella frittata. Ma no, non si disturbi. Ma quando mai? Mi piace la frittata? Sì, mi piace. Vabbè. La signora cucina con poco sale. Giusto, ma troppo poco. Ha una birretta. Siamo semi. E allora, Albanese Verdone, sentiamo Albanese, sempre con Boris Sollazzo, parlare proprio di questo aspetto noir del film. Immagino che quando ti ha chiamato Verdone tutto si aspettava Antonio Albanese fuorché che di girare un noir. Io avevo intenzione di confrontarmi con un grande, e in questo caso secondo me il più grande, che è Carlo, ma soprattutto con un soggetto che ricalca un po' anche quelle classiche commedie all'italiana. C'era proprio come un bisogno di ripulirsi di schizofrenie, di vari ritmi, di varie, con un tappeto classico. E da lì lui è stato intelligente, la possibilità di sfruttare me, sfruttare la sua fisicità, che è una cosa che ci contraddistingue, quindi entrare e seguire una storia, noir anche se vogliamo. Però sai, i meccanismi della comicità sono tanti, quindi questa valigetta, da questa valigetta scatta un mistero, scatta un inseguimento, e quello ti porta anche ogni giorno magari a inventare delle piccole frasi, dei piccoli movimenti. Vi faccio l'esempio: se hai, se non hai, oi, che è una cosa toscana che mi diverte moltissimo, o tante altre cose. E io sono molto contento, ma soprattutto sorpreso dal primo giorno, mi dovete credere, non è così semplice, con Carlo c'è stato proprio una scissione, cioè proprio ci siamo diventati un corpo solo, e questo è molto interessante per continuare a scoprire cos'è la comicità, è molto interessante secondo me. C'è stato un contributo anche, che chiaramente c'è Massimo Gaudioso, Carlo Verdone, anche alla scrittura del film durante il set, nel senso che quando si incontra... Sì, io vedi... Cavoli, la comicità è anche questo, no? È libertà a 360 gradi, e proprio per questo la devi, ogni forma di libertà, rispettare tantissimo. E con attenzione, io devo dire che ci ho messo del mio, ma perché lui si fidava, io mi divertivo come un pazzo, e allora piccole cose, frasi, caratteri, sorprese anche che facevo a lui, che mi divertivano, perché c'è quella scena quando ci presentiamo nella biglietteria del teatro, lui non se l'aspettava, ma allora io ho detto, mi sono trovato con Carlo e ho cominciato un po' a usare un tono un po' così, e lui si vede che è sorpreso veramente, mi ha seguito in questo, o altre piccole cose, però con attenzione per non creare squilibri. E allora, Albanese ha raccontato anche durante la conferenza stampa un aneddoto sul set, sentiamo. Uno degli episodi può essere stato, davvero, voi non vi ricordate, c'è stata una delle estati più calde degli ultimi 1600 anni, tipo, e io mi ricordo ti sudava la lingua quando cominciavi a entrare. E allora ricordo che nell'attraversare una piazza mi si incollavano le ciabatte al catrame e sembrava un film a rallentatore a un certo punto. No, poi ci sono stati i soliti imprevisti legati a davvero alla logistica e tutto, però c'è stata una bella preparazione prima. Non a caso, una cosa che ha detto Carlo, io non lo sapevo, mi ha molto colpito, che il 90% delle scene dei film sono stati sfruttati i primi ciak, perché c'era una... partiva tutto dal desiderio di stare ogni giorno insieme, c'era una preparazione. Insomma, è stato un film buono alla prima, si potrebbe dire. Boris, grazie per averci raccontato il cinema e anche per aver intervistato i nostri protagonisti di L'abbiamo fatta grossa, Verdone e Albanese. Appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Allora, prima di passare la linea alla viabilità, giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Scusate, ma io stavo aspettando di parcheggiare lì. Sì, è andata male. Cara signora, siamo più giovani e più svegli. Towanda. Allora, un film di più di una ventina di anni fa, abbiamo sentito prima si mangiava, adesso si aspettava, allora, no? Due elementi, mangiare e attendere. Di che film si tratta? Scrivetecelo alla rosapurpure@radio24.it con il vostro indirizzo di posta per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana. Invece fra poco, dopo la viabilità, cominciamo a introdurre il tema Tarantino con Piero Fumagalli, che ci racconterà la splendida proiezione in 70 mm che anticipa l'uscita del film del prossimo 4 febbraio, fra poco. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Oh, I love you, Ken. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. La rosa purpurea. Cosa spinge un uomo ad affrontare una bufera e a uccidere a sangue freddo? Beh, vi assicuro che non lo so. Ok, statemi a sentire. Tutti, accompagnerò questa donna alla forca. La ricompensa è di $10,000. Quel denaro è mio, fanciulli. Oh, interessante. Nessuno ha detto che sarebbe stato un lavoro facile. Ma nessuno ha detto che sarebbe stato così difficile. Beh, insomma, spari, dialoghi da Quentin Tarantino, The Hateful Eight, il film che arriva in tutta Italia il 4 febbraio. Noi ne parleremo diffusamente nella prossima puntata con tutta l'analisi critica, ma adesso una giusta anteprima, perché in anteprima questo film è in pochissime e selezionatissime sale in Italia nella proiezione del 70 mm, nello splendore della pellicola 70 mm, il formato in cui il film è stato di fatto girato, e proiezione che è stata fortemente voluta dal regista Quentin Tarantino, che ha detto: io do il film una settimana in esclusiva ai cinema che lo proiettano i 70 mm. Il re di questi cinema in Italia è senza dubbio l'Arcadia di Melzo, ed è con noi Piero Fumagalli, che l'Arcadia di Melzo ha inventato, possiamo dire così, pioniere, precursore delle tecnologie nel cinema. E i 70 mm tu, Piero, l'hai scoperto tantissimi anni fa, e adesso l'hai dovuto rispolverare per Quentin Tarantino, giusto? Beh, se in Italia si parla ancora di 70 mm, credo che parte del merito sia mia, insomma. Questo film comunque non è in 70 mm, ma in ultra panavision 70 mm. Questo è un formato che si era inventato la Cinerama, che per passare dai tre proiettori a uno solo, con l'arrivo del 70, usò questo formato con un anamorfico davanti per allargare lo schermo di proiezione. Ecco, però quello che deve arrivare ai nostri ascoltatori, Piero, è la grandezza di questo formato, lo splendore di questo formato. Uno pensa che vedere un film in 35 mm o vederlo in 70 possa più o meno essere la stessa cosa. Ecco, con uno schermo come quello della sala energia dell'Arcadia di Melzo non è così. Non è così, guarda, io credo che molti dei ragazzi che oggi vivono e guardano televisori e compagnia non abbiano mai visto il contrasto e i neri che possono vedere con questo film in 70. È veramente impressionante, cioè la nitidezza e la profondità dell'immagine che si vede in una proiezione di questo tipo è assolutamente irraggiungibile con ogni altro mezzo, insomma. Tra l'altro con ogni altro digitale, perché poi il digitale, che è un sistema perfetto, quello che vogliamo eccetera, però non fa altro che tentare di ricostruire questa perfezione, ma questa è la perfezione, quindi diventa difficile per qualsiasi altro sistema arrivarci. Perché Tarantino, tu che idea ti sei fatta, Piero, perché Tarantino ha voluto girare in questo formato e ha voluto in esclusiva far vedere questo film per una settimana a chi lo poteva vedere così? Ma secondo me la scelta è proprio dovuta alla drammaticità delle scene, quindi tu l'hai visto ieri, a questi primi piani veramente nitidissimi, e questo contrasto tra il bianco e il nero che crea quasi un maggior partecipazione da parte del pubblico a quello che sta avvenendo sullo schermo. Credo che veramente la fotografia in questo film sia veramente determinante. Insomma, ci sono delle sequenze fuori, ieri ne parlavamo anche con te, questa diligenza che arriva nella neve con questa croce, ci sono veramente delle cose stupende, veramente grande, grande cinema. E allora, ricordiamo Arcadia di Melzo, sala energia, prenotate, perché le prenotazioni sono già migliaia, e andate a vedere questo film prima di tutti, perché il film poi esce il 4 febbraio in tutta Italia in digitale, nello splendore del 70 mm con la proiezione voluta da Quentin Tarantino. Piero, grazie, grazie a te per essere stato con noi, ma soprattutto per quello che fai per chi ama il cinema. Ci risentiamo. Alla prossima, ciao. E allora, anticipazione di Hateful Eight di Quentin Tarantino, ma dicevo, settimana prossima vi aspettiamo qui, perché svisceriamo il film con tutti i pro e tutti i contro. Un'altra piccola segnalazione: dal 1 febbraio al via i lunedì horror Midnight Factory al Cinema Mexico di Milano, tutti i lunedì film horror praticamente inediti, grazie a iniziativa di collaborazione fra il Cinema Mexico e la Koch Media. E a questo punto noi siamo arrivati invece al cinema da vedere in casa, insomma, dallo splendore, dalla magniloquenza del 70 mm al nostro schermo, che insomma, se almeno è 50 pollici, già siamo contenti. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, facciamo così: andiamo prima ad ascoltare una piccola clip del gioco della scorsa settimana. Sai che mi piace il tuo vestito, è adorabile. Oh, questo straccetto, ti ringrazio, adoro come svolazza. Treno dei pensieri in perfetto orario. E allora, si trattava di Inside Out. Tantissimi hanno partecipato, tantissimi hanno indovinato, come spesso accade quando giochiamo con Casa Disney, ma i più veloci sono stati Alberto Dorsi di Cernusco sul Naviglio, provincia di Milano, e Daniela Lomuscio di Roma. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di Inside Out, del quale parliamo col nostro Giulio. Allora, come sempre, immagino Casa Disney non si è risparmiata nella stesura e nella confezione di questo prodotto. Tutt'altro. Inside Out, che è stato anche nominato da moltissime riviste specialistiche, Film TV compresa, il miglior film del 2015, è il cartone Pixar che racconta la crescita di una bimba e rappresenta il dibattito delle sue emozioni come se fossero protagonisti in una plancia di controllo, ovvero nel suo cervello vediamo, come in una versione del famoso cartone animato didattico Esplorando il corpo umano, vediamo litigare gioia, rabbia, disgusto, paura e tristezza. È un film veramente ambizioso che immagina come è costruita la memoria e la gamma emotiva degli uomini e fa un piccolo sfregio a tutti i sorrisi stampati dolciastri dei cartoni Disney, perché qui tristezza nella vita ha un ruolo fondamentale. Il disco è veramente perfetto, coerente a un film di grande avanguardia tecnologica. Nel disco singolo, come extra, abbiamo il corto che anticipa sempre il film Pixar, che questa volta è Lava. Un divertente primo appuntamento di Riley, la piccola protagonista, e il commento audio. Nella versione Steelbook invece c'è un intero disco apposito per gli extra con focus tecnici, scientifici e veramente tantissimi sfide. E allora, questo è Inside Out, il nostro game della scorsa settimana, uno dei film che hanno caratterizzato senza dubbio la prima parte di questa stagione cinematografica. Ancora lo troviamo, se non erro, al secondo, al terzo posto della classifica generale degli incassi dallo scorso mese di agosto in poi. Andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti TV, cominciando con un film che io ho amato molto, che si intitola Uomini di Parola. Sono contento quando ho visto che era in programmazione, l'ho subito segnalato al nostro Giulio San Giorgio. Uomini di Parola su Rai Movie alle 21:20 di domenica 31 gennaio. Val esce di prigione dopo 28 anni, si è attribuito la colpa di un crimine ma non ha mai rivelato i nomi dei complici. All'uscita lo aspetta Doc, che è il suo migliore amico, e i due si ritrovano, si parlano e si abbracciano, ma in realtà Doc è incaricato di uccidere Val entro le 10 del giorno successivo. È un film sui tempi andati, un noir letteralmente al crepuscolo, una sorta di gangster movie con Al Pacino e Christopher Walken, che prima che personaggi sono citazioni viventi di altre decine di gangster movie e di un cinema glorioso e passato. Un film nostalgico e sentimentale, anche divertito e divertente, con delle piccoli deragliamenti triviali, insomma, una chicca. Assolutamente una chicca da recuperare allora su Rai Movie alle 21:20 di domenica 31. Lunedì 1 invece, Giulio, Un mondo perfetto. Quando nel 93 Clint Eastwood firmò questo film con Kevin Costner, allora in auge, si gridò al capolavoro e si pensò che Clint aveva raggiunto il suo apice. Forse non avremmo mai pensato che ci avrebbe messo altri 20 anni di carriera e qualche altro film da ricordare lì in mezzo. Sì, è veramente difficile scegliere poi quale sia il suo migliore. Qui siamo a Dallas nel novembre del 63, luogo un tempo non casuale. Butch evade di prigione con un compagno violento che poi finisce per dover uccidere. Le circostanze lo costringono a prendere come ostaggio un piccolo, un bimbo, Philip. Tra l'uomo e il bimbo si instaura un rapporto amichevole. È un film spesso veramente crepuscolare, lirico, struggente. Qui Eastwood è sicuramente a uno dei suoi massimi e finisce per raccontare come spesso accade l'infrangersi del sogno americano alla fine delle illusioni. L'uomo e il bambino corrono verso un'ultima frontiera mentre a Dallas sta per sbarcare JFK e morire. La storia ovviamente da lì in poi non sarà più la stessa, e l'America neppure. E allora ricordiamo l'appuntamento con Un mondo perfetto di Clint Eastwood su Iris lunedì 1 febbraio alle 21. Grazie Giulio, appuntamento con gli amici di Film TV alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E le note della sigla ci dicono che siamo arrivati in fondo a questa nostra puntata veramente molto densa. Non mi resta che darvi appuntamento a sabato prossimo. Tarantino protagonista, ma non solo, qui alla Rosa Purpurea, come sempre. Tutto il cinema che c'è.